chiaro credo, se sta a sollevare potenza, sono arrivato a Portogallo, hai visto? E dunque già va bene anche così. Di lusso. E di lusso. Beh, grazie. Io adesso mi assento che vado a prendermi moglie e a recuperarmi moglie e figlia. Ehi, ok, va bene, no, io già me ne vado dal terrazzo che c'è una festa qui vicino, qua, nella piazza nuova che hanno aggiustato, capito? C'è un sacco di gente. E allora ogni sera, quasi tutte le sere ci sono complessi, balletti, capito? La faccio e mi guardo qui. Ok, ciao, ce la risentiamo. Ciao, buona domenica, a te a QRA, ciao. Ciao, grazie, ci sentiamo, grazie altrettanto a te in famiglia, passatevela bene. Ma nel caso poi, come rientro più tardi, provo a accendere, se capita che c'è qualcuno, una chiacchierata, ti ripeto, me la faccio ben volentieri, dai. Ciao, grazie, stati bene e ci sentiamo alla prossima. E a meno che non lo accende Torre Squalo, c'era anche Torre l'altra sera. Va bene, ciao. Ciao, grazie, ciao. Intanto è acceso qua sul tavolo, ok.